coso, fammi una mixata, va. Questo è il cammino di un bravo bambino. Sì, sì. So passati 20 secondi, sono spirati così proprio a unisono. Mordaci. Finire il vocalist. Il Cammino e Gigi D'Agostino vi aspettano giovedì 7 settembre Fuck.

Qui si fa comunicazione. Gigi D'Agostino percorre anche sentieri sterrati e quindi è possibile che in alcuni momenti tu possa ascoltare il rumore delle pietre calpestate e scalciate da Gigi D'Agostino. Lavora lento, violento, lento, violento. Mi piace. Lento, violento, lento, violento. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Ogni giorno ci gira intorno. senso, solo un abbaglio, non c'è canzone senza lo sbaglio. Vuoi fare? If I lay down my love to come to your defense, would you worry for me with a pain in your chest? To pick me back up and to push me along. Tell me you'll be there in my hour of need. You won't turn me away. Help me out of the life I lead. Remember the promise you made. Remember the promise you made. If I gave you my soul for a piece of your mind, carry me with you to the far edge of time. Could you understand if you found me untrue? Would we become one or divided in two? Please tell me you'll be there in my hour of need. You won't turn. Il cammino di Gigi D'Agostino. Mi strapiace una cifra. M2O. dai e vo sulle mani. Qualsiasi mezzo, auto, bici, a piedi o in motorino, segui questo cammino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Libera la mente, dimentica perché, apri le tue ali e vola via con me. Stiamo percorrendo il cammino di Gigi D'Agostino. Avviciniamoci tutti, dai. Abbracciamoci forte. Ogni giorno ci gira intorno. Musica che unisce. stiamo percorrendo il cammino di Gigi D'Agostino. Ci fermiamo quel minimo. Riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Dai, è po'. Ogni giorno, all'ora sesta, c'è la musica che pesta, muovi un po' la testa. Hai capito? Sì, sì. Dov'è il vocalist? Mi raccomando, scrivilo nell'agenda. C'è Gigi D'Agostino e la sua musica tremenda. Mi piace guardarti giocare, mi piace vedere la gioia nei tuoi occhi. Mi piace sentire le tue lacrime sul mio petto quando ci perdiamo nei nostri abbracci. Sentire quel pianto è una stretta al cuore. Amore in quelle mani quando si stringono le mie. Riesco solo a non dire niente quando

ciao, ciao, ciao, ciao. A coso. Ciao, ciao, ciao, ciao. Dai, dai. Ciao e grazie.